manca, sarà la voglia di andar via. Qui manca la poesia. Cosa c'è? Cosa quegli occhi stanchi che non han voglia di vedere? C'è ancora tempo per cercare. E intanto va questo giorno stanco, con le certezze che cerchiamo ma non troviamo mai, perché tutto intorno è relativo, con la certezza solo sempre che sei vivo, vivo. Perché ho bisogno di te. Nasconde, ma salta fuori all'improvviso tra le onde chiare e tutto quello che c'è intorno si illumina e comincia un nuovo giorno. Che cosa c'è? Ma noi chi siamo? Spesse volte nella vita ci perdiamo, perché tutto intorno è relativo, con la certezza solo sempre che sei vivo, vivo. Perché ho bisogno di te. Perché ho bisogno di tutti, anche di te. Nasconde, ma salta fuori all'improvviso tra le onde chiare e tutto quello che c'è intorno si illumina, comincia un nuovo giorno. Quello che c'è intorno si illumina.